monotonia che esprime in fondo quello che pensiamo e vive in uno specchio il tuo riflesso. Si incrociano gli sguardi della gente, contorni incerti della nostra fantasia. E nel momento in cui mi sveglio e penso, io tremo, tremo mentre guardo la mia diversità. In fondo stanco della razionalità, per cui penso che qualcosa cambi in me. Sbagli, resti immobile. E mentre guardo la mia diversità, in fondo stanco della razionalità, per cui penso che qualcosa cambi in me. Mille parole che scivolano a fondo dentro un foglio. Voglio